dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E siamo bentornati, esatto. Non eravamo sicuri su chi iniziasse. Bentornati come sempre qui, come ogni mercoledì, sempre all'Onda in Onda. Questa è Radio Panorama. Lui è Andrea. Lui è Antonio e dietro la regia Bummo. Ciao, ciao Bummo. Come allora, stai Bummo? Bene, sempre bene. Fa freddo, eh? Sì, qua da morire. No, no, perché ho acceso l'aria condizionata. Che poi Andrea mi dice accendila, ma è sempre lui che non soffruisce. Sì, è vero. Non è utile. Senza aria condizionata, ci stiamo spogliando vivi. Se sì. Volete vederci nudi, www.radiopanorama.info o.eu. Per chi vuole ascoltarci, no, non lo metterà nessuno. Sì, ma poi non si è capito se ha detto se volete vederci rudi o nudi. Non si sa. Dipende. Rudi dipende. E nudi. Curiosità, se volete vederci rudi, radiopanorama.info. Se volete vederci nudi, radiopanorama.eu. Quindi c'è questa sottile differenza. Esatto. È cambiato il numero della messaggista. Qualcuno me lo chiedeva, il nuovo numero per gli sms è il 380 7690 204. Non è vero, è cambiato in realtà il numero per chiamare in diretta, che è 091 888 5182. Il numero della messaggistica è sempre quello. E invece, infatti, mentre lo leggevo ho detto non mi è nuovo, però volevo vedere se eri attento. Bravo Andrea che hai trovato l'errore. E poi ovviamente potete seguirci sulla nostra pagina facebook.com/londainonda e twitter.com/londainonda. No, sempre la sempre, senza la senza L. L. Vedi, un errore l'uno, sempre non L. fa male a nessuno. Sempre L. Non sai che dire, è sempre L. Abbiamo il pubblico oggi, Brumma, che l'altra volta non era molto presente. Esatto, ce l'abbiamo. Ragazzi, 26 persone stasera. Oggi puntata scoppiettante, non più tante interviste, ma solamente i Rubens, che meritano veramente di essere ascoltati con il loro nuovo singolo e fatto parte, con parte, i Sound System. Attenzione. Quindi mica gotica. Simu Salendine dello Munno Cittadino. Esatto, ma restate con noi subito dopo la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Onda in onda, bombo classico, se ti amo se va. Yamai! Noi siamo i giovani. Siamo qui appunto in diretta per l'Onda in Onda. Qualcuno ci ha detto di ripetere i numeri un po' più piano. Allora, SMS 380 7690 204 204. Più perché veloce l'ultimo. Ovviamente, telefono invece partiamo veloci. 0988 5182. Telefonati. Ecco, la signora, quella che poi commenterà anche i pezzi che passeremo. Sì. Allora, è passato Michelino, l'hai sentito? È stato sì, è passato Michelino velocemente durante la sigla, ho sentito che cantava. Io non lo imito perché è inimitabile Michelino. Canteggiava qui. Canteggiava, però può essere che sta ripassando forse? Non lo so, io sto bambino mi sta proprio sul cazzo. No, Andrea, sul culo, mi sta su. Evviva, salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Non lo sopporto. Belle parole. Tutte più piccole. Attenzione, aspetta, mi sembra ci sia lui. Aspetta. No, sembrava che fosse lui. Eccolo. Ciao Michelino. No, Bibi. Ciao, oggi inizi con l'alfabeto. Bebo. No, dopo A, B c'è la C, non beba. Un'altra volta, va bene. La mamma come sta? Io te lo chiedo sempre. Che... No, vero, mi fa male la patata. Ok, a mio padre fa male, quindi dice. La pipì, bla bla bla. Senti, ma come mai tu sei sempre qui di passaggio il mercoledì? Tu non abiti in un'altra città? Io vado da Macale. È diventato un mucedin, non si sa per quale esatto. Chi pensi che sia il più dotato della radio tra Montemagno, ad esempio, ed Andrea? Mamma. Ah, tua mamma. Ho capito, vabbè, è importante. Sempre la mamma è sempre la mamma. Mimmo. Senti, Mimmo? Bimbo. Sei un bimbo. Blimbo. Senti, pensi di. Si è arrabbiato, blimblo. Senti, più tardi pensi di venirci a trovare di nuovo? No, non è. un po' di secca. Però guarda, finisce in Ananna. Cioè, il primo bambino al mondo che si canta da solo la ninna nanna per un coglione. Si addormenta pure. Si addormenta mentre la canta. Lui è programmato appunto perché se la canta e se la suona, l'odio, come si vuol dire. Tra l'altro è pure brutto, diciamolo. Non è brutto. No, no, no, diciamolo che veramente fa schifo. Sì. Ma ho capito. È arrivato un messaggio, qualcuno ci chiede come saprei. E è una domanda. Non lo so neanche io come saprei. No, effettivamente. No. Però non preoccuparti, lo sapremo più tardi. Non lo sapremo prossimamente. Ci attrezziamo per saperlo. Assolutamente sì. Probabilmente la dedica. Vorrebbe dedicata come saprei. Noi facciamo un programma rock, rockeggiante. Anche se Giorgia, insomma, è abbastanza. Giorgia, che cosa? Non ho capito. Giorgia. Giorgia. È una canzone, Giorgia. No, è la cantante. Ah, la cantante. Giorgia è rock. Giorgia è soul, diciamo. Giorgia è soul. Sì, se abbiamo una se abbiamo una versione di come saprei soul, il regista sembra tra uno che desersi al cesso perché ha mangiato molto piccante e uno che non ha la canzone richiesta. L'SMS non è firmato, ma noi ti dedichiamo lo stesso alla prossima canzone, che invece è un po' più rock. È simile a sì, la dedichiamo soprattutto al consigliere, al parlamentare leghista che non sapeva parlare italiano, polenta e kebab. Creature verdi che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi. Non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi. Ma odiano il kebab, Maometto in senza tetto e anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Inventa qualche balla, attirano la folla. Corrito dell'ampolla e l'offerta di Obò. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, rancontro i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri, bastardi, il tricolore Garibaldi. Vogliono il kebab, Maometto in senza tetto e anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero. Fedele è un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti. Se lo incontri per la strada proprio non diresti che far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ma se la scienza medica si mostra pessimista, ci vuole l'esorcista. Senti che puzza, scappano anche i cani. Stanno arrivando i napoletani. Napoli merda, Napoli colera. Tu sei la vergogna dell'Italia andare. Ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani ce ne sono tantissimi, per bene anche di più. Non siamo noi, noi siamo quelli che pure a Napoli ci chiamano Zulu. Odiano il kebab, Maometto in senza tetto, anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero. Fedeli è un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti. Se lo incontri per la strada proprio non diresti che lui crede di far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ha un posto fisso in villa, si sente lusingato. Ma poi la vera festa inizia quando se n'è andato. Lui crede di far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Dopo aver ascoltato Giorgia, no scusate, i Pancreas con polenta e kebab, siamo tornati qui in diretta. Senti, ma perché non mi metti l'altro sottofondo? Li alterni? Ora ci pensiamo. Ah, va bene, ci siamo alla ricerca del sottofondo perduto. Ah, perfetto. Allora, come dicevamo, noi la scorsa settimana abbiamo avuto diverse interviste a personaggi più o meno importanti. Ma stavolta le abbiamo una. Andrea, intanto non so che problemi ha, orroidi? Comunque, probabilmente. Andrea, vai a chiamare il prossimo ospite che sta scalpitando alla porta. Giusto che io lo inizi a presentare prima che parta quello che è l'inno, quello che gli permette di entrare ed essere subito in media res, altrimenti lui non parlerebbe. Lui, come definirlo, è un giovane anziano oppure un anziano del domani, non saprei come chiamarlo. Di certo è l'ultimo grande baluardo rappresentanza del comunismo nel mondo, non solo in Italia, non solo in Sicilia, non solo nella sua ridente Regalcioffoli in provincia di Rocca Palumba, ormai colonia, diciamo, che si distingue per il comunismo. Sentite già in sottofondo quello che è il suo inno. Ebbene, direttamente dal collettivo Giancarlo Mattello, è un piacere ed un onore dare ancora una volta il benvenuto a Fidelio Cusimano. Ed ecco la folla che si alza in piedi, tutti con i pugni al cielo. Se siete in macchina, tutti con i pugni alzati, buonasera Fidelio. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Panorama, la radio che, come sapete, vi ama. Intanto suona un telefono. Suona qualcosa, non preoccupatevi. Non abbiamo idea, perché non so se comunque la radio dei misteri, l'altra volta c'erano interferenze con tutti i telefoni offline. Vabbè, mentre il regista si guarda attorno come Pierino al primo giorno di scuola, Fidelio, come stai? Da tanto che non vieni a trovarci. Da tanto. Noi praticamente abbiamo deciso, in questa assenza dalla vostra radio comunista, di fare le primarie a Regalcioffoli. Ma intanto perché lei sostiene che questa sia una radio comunista? Perché, solo perché la ospita? No, perché quando ci sono io il comunismo vive e lotta insieme a voi e a tutti gli ascoltatori. Vorrei dire, appunto, abbiamo fatto le primarie del centro nel centro sinistra, mi sono confuso anche io, ogni tanto passo a destra. Le primarie del collettivo Giancarlo Mattello, no? A Regalcioffoli. Sì. E come primo atto abbiamo dovuto far capire dove si allestivano i gazebo, dato che abbiamo una situazione un po' complicata, che il palo, no? Benvenuti e arrivederci è sullo stesso palo nel nostro quindi il cartello benvenuti e arrivederci, sì, è sullo stesso palo a Regalcioffoli. Quindi avete dovuto piazzare proprio sotto il palo? No, l'abbiamo messo in lungo, è un gazebo tipo parete e noi ci siamo che messi, prende la strada, sì, tipo muro, ci siamo messi lì a raccogliere firme ovviamente per i candidati del collettivo Giancarlo Mattello, che poi attenzione è geniale come cosa, perché ovviamente se viene bloccata la strada tutti i regalcioffolesi, mi corregga se sbaglio, erano costretti a votare. I comunisti, mi scusi, comunisti, tutti comunisti. Proprio la città si chiama comunista. No, loro non hanno nome di città per l'identità, perché sono comunisti. Siamo tutti uguali, quindi tutti comunisti. Tutti non c'è comunisti. Il Regalcioffolese, il Rocca Palungbano. Il Rocca Palungbano. No, ricordiamo, esiste, che Rocca Palumba diventò Rocca Palungba quando? Quando abbattemmo l'Africa. Quando costruimmo il muro che separava, no? Rocca Palungba nord, sud, est, ovest. Insomma, un po'. Perfetto. Era un muro acquatico. Sì, un muro acquatico. Difficile da spiegare per i. E come sono andate queste primarie? Voi vi siete ispirati al modello di Bersani, Renzi, sì, per Vendola. Una volta abbiamo voluto portare questa cosa occidentale anche nel nostro partito, diciamo molto ristretto. I candidati sono sfidati lealmente, veramente molto lealmente, e qualcuno ha anche telefonato mentre sì, arrivano si telefonate, candidava. Non si sa bene perché. Abbiamo scoperto cos'è, sono i messaggi che ci arrivano. Ah, quindi oggi ci tempestano di messaggi. Va bene, allora li leggeremo dopo. Prego, Fidelio. No, dicevo appunto che ci siamo sfidati, i candidati sono sfida di tutti quanti, eravamo io e Giancarlo Mattello, che come sapete tutti è morto, quindi sono stato eletto. Quindi erano, come dire, sì, beh, capitano con quelle elezioni in cui ci siamo un unico candidato. È morto durante la corsa alle primarie, quindi perfetto. Perché in realtà noi abbiamo detto che erano istituite nel 1980. Ma in che anno è morto Fidelio? In che anno è morto? Fidelio è ancora vivo accanto a lei e lotta. E scusi, Giancarlo, Giancarlo Mattello, ho confuso i nomi, mi perdoni. È morto appunto nel 1981, ucciso in Svezia. Scambia sempre questa cosa, se ne è accorto. Perché cambiano gli stati e le modalità soprattutto, sì, da poliziotti spagnoli. Senta, fascisti. Posso chiederle se possiamo far intervenire il piccolo Michelino? No, guardi, io invece lo odio questo bambino, come il suo collega Andrea. Ma vorrei parlarvi dell'ultimo film che non è per bambini, quindi. Allora, Michelino alla larga. Tieni Michelino fuori dalla porta, scusami Alessandro. Michelino fuori. Ecco, perfetto, dal live sentite. Poi cosa cerca il regista in aria? Non si sa, però l'ha cacciato via. Lui, prego. Allora, dicevo, questo film praticamente, lei scorda sempre di dire che noi nel collettivo Giancarlo Mattello promuoviamo la cultura cinematografica neorealista ai nostri cineforum, una cosa innovativa che abbiamo fatto, ecco. Noi soltanto comunisti riusciamo a fare il cineforum, perché nessuno l'ha mai pensato, sì, questa cosa. Non so che è successo. Mi raccomando, si spieghi bene, perché ci stanno seguendo anche da Bologna. C'è un ragazzo cinese. Bologna, grande città comunista. Esatto, c'è un ragazzo cinese da Bologna cinese, che ci sta seguendo. Quindi e... Mao, viva Mao. Viva Mao. Io spero che lui sia d'accordo, perché se viene qui a picchiarla io vado via dalla radio. Viva sempre Mao. Viva. Il film di cui andiamo a parlare oggi è un bellissimo film di un grandissimo regista, si chiama Leroy Merletto. Leroy Merletto, che non ha a che fare con è le... un regista francese. Non ha a che fare con i centri commerciali di bricolage. Nulla, nulla. Zero. Quello, il capitalismo che ha assunto la sua bellissima etica del film di cui andremo a parlare questa anche sera. Anche bellissimo per fare nome. Un bruttissimo posto di bricolage. Leroy Merletto, un regista francese, famosissimo neorealista del 1920, ha fatto questo bellissimo film che si chiama Palizzate in legno operaie. Cioè, scusi un attimo, sono le palizzate a essere operaie. Già il cineforum dibatte prima nel titolo, dice sono le palizzate o sono legno operaie. Allora, le spiego una cosa, le faccio una domanda, vediamo se mi risponde. Che figura retorica è quella per la quale lei sta utilizzando un aggettivo, guarda come inizia a sudare Fidelio, che va, diciamo, riferito solitamente, no, a qualcos'altro, a un essere umano, però lei lo riferisce per vie traverse a un oggetto, in questo caso le palizzate. Le palizzate operaie cos'è? Una metonimia, una sineddoche, una nave? Una metafora, una similitudine. Ovviamente è una sineddoche. Ovviamente, come sbagliare? Al di là di questo, andiamo avanti e torniamo al film. Questo bellissimo titolo, Palizzate in legno operaio, un film di Leroy Merletto, parla di un cantiere costruito dagli operai, appunto, in legno. Questo cantiere però è visto dal lato delle tarme del legno. Attenzione, quindi è visto dal punto di vista delle tarme, del legno. Quindi ora sei totalmente innovativo. Già Leroy aveva già scoperto, insieme ai suoi grandissimi amici Marconi e altri scienziati, che le tarme vedono molto più lentamente dell'essere umano e quindi ogni tanto si approfonda in mano. E quindi non questo film è molto lento, solo per piantare un chiodo c'è una scena di un'ora e mezza. Invito Fantasma. Tutti quanti a venire a vederlo, vediamo la versione integrale. Invitiamo tutti a portare degli stuzzicadenti samurai, possibilmente, per tenere sollevate le palpebre. Fidelio, noi ti invito quindi questa sera alle 22 al Cineforum di Irre Calcioffoli all'Arena, questa sera all'aperto, perché c'è caldo, mi raccomando. Se volesse venire anche il discendente di Mao da Bologna, come potrebbe arrivare entro le 22? C'è un aereo, una linea preferenziale, un treno veloce? Ho dirotta un aereo. Può dirottare un aereo? Non mi imiti, per favore. Scusi, oppure, mi è scappato. Ovviamente con la locomotiva, che tutti sappiamo essere il mezzo. Come si chiama? Grande compagno, ovviamente. Sì, vabbè. Tu lavori, Guccini. E io magno. Va bene, allora noi la ringraziamo. Passiamo un po' a quelle che è un pezzo amato dai giovani, che anche nel titolo vengono richiamati. Ci ascoltiamo i My Chemical Romance con Teenagers. Out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said I'll see you. At the stick, you're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, I'll teenage scare the living shit out of me. They could care less as long as I wanna bleed. So darken your clothes. Oh, yeah. Ed eccoci ancora qui dopo la grandissima intervista con Fidelio, che ringraziamo ancora per esserci stato. Fidelio è sempre un grandissimo. Senti, e allora sì, qualche secondo ci ascoltiamo, almeno l'inizio, ascoltate un po'. Buon load a load. Ragazzi, quasi porcheggia. Che rende anche bene, sì, Santana, sì, sì, come i Led Zeppelin. Esatto, ragazzi, gran porco rock and roll a Radio Panorama. Ricordiamo un attimo i contatti: facebook.com/londainonda, twitter.com/ondainonda. E salutiamo anche Simona e Giorgia che ci hanno scritto poco fa via messaggio. Non capivamo quello squillo strano, è cambiato, mi sa. Allora, caro Andrea, di cosa ci vuoi parlare? Ma oggi vorrei dare due classifiche che vi invito a seguire. Le iniziamo adesso, perché poi c'è un pezzo della pubblicità e continueremo, sì, sì, dopo. Intanto iniziamo con una delle classifiche, diciamo, più in voga, più interessanti di quelle che possono essere le nostre classifiche. 10 domande le 10 frasi in realtà dell'uomo col mestruo. Dell'uomo col mestruo, cioè nel senso è l'uomo un po' stronzo. Ah, io pensavo l'uomo un po', come dire, sclerato, un po', sì, sui di giri, come le donne quando hanno il mestruo. Esatto, anche questo. Anche quello, va bene. È un po' complicato, se la seguite con noi ne capirete sicuramente di più. E al decimo posto abbiamo il primo dialogo che si può avere con lei. E lui, lei, ma non ti rendi conto che io sono innamorata di te? E lui, sì, lo so, ma io no, non sono innamorato di nessuno, ma se lo fossi lo sarei di te. Poi c'è la variante di questa decima posizione, è un... come si dice quando sono pari meriti? Un ex equo, bravo. Bello, quando Andrea ha bisogno delle mie parole. So, ma io sono così, mi devono tirare fuori dalla bocca. Variante essere un coglione. Lui, ho bisogno di stare da solo perché sono un coglione. Ma come? Perché sei un coglione? Perché ti sto lasciando, tu non hai nulla che non va. E allora perché lo fai? Perché sono un coglione. Perfetto. Un genio. Un genio, un grande. Applausi del pubblico, 20, tutti e 26. Questa era la decima posizione, ma per seguire tutte le altre 9 fino alla top 3, insomma, fino al podio. Sì, cioè, è già momento di spararci il pezzo. Sì. Abbiamo il tempo di sparare un'altra posizione. Il regista, no, non, il regista è sicuro. Non è sicuro, quindi va bene. Allora, il prossimo pezzo e restate con noi, perché poi c'è anche un'altra classifica e, sì, continuiamo col nostro programma. Tutto dopo la pubblicità. Ciao. Why? Stai ascoltando L'Onda in Onda. Different horses by lots of different men, and I say liberate your sons and daughters. The bush is hot, but in the hole there's water. You can get some when they're given. Nothing sacred, but it's a living. Hey, ho, here she go. Either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Eccoci qua dopo l'ascolto di Candy di Robbie Williams. Sono le 19.09 o in replica, lo ricordiamo sempre perché L'Onda in Onda va in replica anche a mezzanotte del mercoledì. E al momento chi ci sta ascoltando in replica sono le 12.39 minuti. Bravissimo, bravissimo. Ricordiamo che dovete mettere mi piace alla nostra pagina su facebook.com. È un ordine. Se no vi veniamo a tagliare le ruote della macchina. Esatto, perché noi vediamo tutti gli indirizzi IP di chi è collegato ma non mette che mi piace. Che ruote della macchina, boom, ne sa qualcosa, visto che prima di venire in radio ha bucato, poveretto. Veramente. Come al solito, io buco 5-6 volte al mese. Bravi, ma come fai, compà? È il record, perché io faccio rimborsare alla Bridgestone. Ma sono i chiodi che cercano te o hai un amico in Bridgestone che tanto amico non è? La Bridgestone. Sì, sì, sì, sembrava un mio amico che una volta alla scuola media in inglese fa la stessa now you can read, please I must study. Fa fuori, cioè lo voleva buttare fuori, neanche due. Poveretto. Allora, no, ricordiamo invece di mettere mi piace, perché fra poco arriviamo a 500 mi piace, quindi attenzione. Qua c'è l'applauso del pubblico che sta. 500esimo vincerà un disco, vero? No, sul serio? Vincerà vero, un... no, sul serio il titolo no, del nel disco. Senso, sì, esatto, che è un gruppo. Ma vero, qual è il disco? Serio. Qual è il disco? A scelta. A scelta proporremo una vasta gamma di dischi. Ok, quindi affrettatevi a mettere il vostro mi piace, perché siamo a 496 fra 4 mi piace. Intanto il regista ride in modo compulsivo. Brumma, che succede? Ma nulla, nulla. Ma nulla, ridevo, nulla. Ridevo qui e tra ridiamo, me e la regia. Ridiamo il numero di SMS 380 76 90 204, per chi vuole mandare gli SMS in diretta. Ovviamente chi è in replica non li mandi, se no li manda. Ma noi vogliamo sentire la vostra voce. Facciamo così: regaliamo, me lo permetti, un CD al 500esimo mi piace e un CD al primo che da questo istante ci chiama anche solo per urlare un'offesa e chiudere il telefono. Scherziamo, preferiamo parlare con voi. Comunque 091 888 5182, quindi 888 5182. Vediamo un po' chi chiama per primo, così regaliamo ben due dischi oggi. Vediamo un po' come va. Va bene, allora continuiamo intanto con la nostra classifica. Sì, delle 10 frasi dell'uomo col mestro. Abbiamo dato la decima. Io faccio sempre lei. Sì, tu fai sempre lei, che ti viene bene. Al nono posto troviamo un'avventura seria. Come puoi chiedermi di uscire se sei fidanzato? Lui, fidanzato, io lo definirei un'avventura seria. Ecco, questo era un bellissimo nono posto, ma andiamo all'ottavo. Io penso a te all'ottavo posto. Lui, tu sei stata importante. Sei importante, solo con te sto bene. Allora restiamo insieme. Non voglio precluderti la possibilità di trovare uno che voglia stare con te tutta la vita. Precluderti è stato tenuto. Era un mezzo tra Zoidberg di Futurama. Non voglio... Ma lui comunque ha difficoltà anche coi numeri. Poco fa doveva dirmi un numero di telefonino a voce alta. Era pieno di 8 e 9, non riusciva a ripeterlo. Attenzione, c'è il regista che ci fa notare qualcosa. C'era un messaggino, un SMS. Attenzione, lo leggiamo in diretta. Il numero dicono che non sia attivo quello del telefono fisso. Attenzione, quindi c'è qualcuno. È una scommessa inutile perché è un messaggio. Vabbè, ma credo... come? Non è possibile. In realtà è attivo. È 091-888-5182. Riprovate. Firmate 09... questo è che ha sbagliato il previsto. 091-888-5182. Ma cogliamo l'occasione per ringraziare Giorgia, che poco fa ci ha detto che siamo una bella radio. Gli piaciamo, le piaciamo. Allora noi la ringraziamo. E ringraziamo anche Simona, che vorrebbe dedicare una canzone che non so se possiamo dedicare. Non lo so. Vedremo più avanti. A una persona che gli ha cambiato un po' la vita negli ultimi 5 giorni. Il primo SMS abbiamo ricevuto è proprio quello di Simona. Quindi Simona si aggiudica un disco. E allora un applauso per Simona. Sì. Per vedere quale vuole tra i dischi che possiamo darle. Ma torniamo al settimo posto della nostra classifica delle 10 frasi dall'uomo col mestro. E questa è la categoria l'importanza della fedeltà. Abbiamo una foto di Petreus messo. E questa è tutta tua, prego, dilla con intenzioni teatrali. Scusami, torno con la mia ex. Stare con te mi ha fatto capire l'importanza della fedeltà. Questa è da strappla. È micidiale questa. Questa è micidiale. Devo dire che è veramente bella, veramente. Ma continueremo bella. Subito dopo. Prima una notizia di quelle che piacciono tanto a noi. Notizie che non può discostarsi dall'argomento delle altre notizie che abbiamo dato. Certo, sempre argomenti strane. Noi vogliamo alti. Ovviamente diciamo che tra cultura, le... cultura è sempre cultura. Fa sesso con due cani, poi lo dice al fidanzato. Lui la fa arrestare. È successo a Phoenix. Raccapricciante storia proveniente dagli Stati Uniti. Questo lo dici tu il nome. Brittany Angelique Saunier, 20 anni, accusata di aver fatto sesso con due cani di sua proprietà. E allora qual è il problema? Non si sa. Tutto è iniziato quando la ragazza ci sta in questo caso. Al suo fidanzato, che ha subito avvertito la polizia. In particolare la ragazza è stata accusata e condannata di aver avuto rapporti sessuali vaginali e orali con due cani di casa. È stata arrestata lo scorso 20 novembre. Io mi commuovo sempre, immagino la gente che accende la radio adesso dice: ora voglio sentire una cosa per la famiglia. Sai, sono le 19. Stanno tornando dal centro commerciale. Esatto. Ma noi lo sappiamo che siete dei maniaci perversi. No, ma magari in questo momento siamo veramente dentro una macchina. Signor Tiberio, non mi svenga. Signora, ma le sono piaciuti i pezzi che abbiamo messo stasera? Signora, la signora del primo piano, le sono piaciuti i pezzi di stasera? Che bella musica! Noi vogliamo, chiediamo sempre un parere alla signora. Continua la notizia. Abbiamo ricevuto una segnalazione riguardante Brittany Angelique Saunier relativo alla bestialità compiute da parte sua sugli animali, ed è stata presentata una denuncia penale da parte del suo fidanzato all'ufficio del procuratore della contea. Facciamo battute sulla denuncia penale o andiamo avanti? No, andiamo avanti. Io direi che... Ha affermato il sergente Joe Harold al The Huffington Post, che ha continuato: la ragazza un giorno mostrò al suo fidanzato le immagini che le ritraevano mentre faceva sesso con i poveri animali. Poveri, insomma, io... Vabbè. Vabbè, poi magari confessato di fare sesso con i cani di famiglia da quando aveva 13 anni. Quanti ne ha? Perché non lo so. Da 7 anni, quindi scusa, non è a 20. Sì, perché non riusciva a trovare un partner che la soddisfacesse sessualmente. Cioè, io immagino il cane quanto si pavoneggi con gli altri cani del vicinato. Sì, sarà un cane di colore che vale. Ragazzi, voi mi fate le cagnoline, le barboncine, io vado direttamente alla fonte. Con la padrona. Va bene, allora ascoltiamo il prossimo pezzo. Aspetta, poi... c'è arrivato un messaggio. Ah, sì. Anche io ho provato a chiamarvi e non riuscivo, quindi avanzo un CD. Però è arrivato dopo, perché sono due minuti fa. Sì. Ci dispiace, Giorgio, ci dispiace. Allora, se non riuscite a chiamare, 380-7690204 per gli SMS. Gran pezzo. Adesso ci spariamo un pezzo che il nostro regista ha tanto voluto. Eddie Grant con Gimme Hop, Joanna. Will make Joanna see how torniamo in diretta sempre con Radio Panorama, con l'Onda in Onda, in realtà su Radio Panorama. Sì. E dobbiamo parlare di quello, sì, che è l'argomento del giorno. Dopo torneremo, sì, alle nostre classifiche, lo promettiamo. Sì. Ma l'argomento... Mi sono incantato. Sì, io continuo a dire sì, ma tu non mi scanti. No, non ti scanto. Perché incanti, scanto. Mamma mia. Vabbè, sì, dimmi. La notizia, diciamo, del giorno, della settimana, che qual il è? Papa è su Twitter. Quindi aggiungetelo tutti, lui credo abbia già 500.000 followers, sì, non so, forse esatto, di più, forse esatto, di più. Primo giorno 150.000. E ovviamente non poteva non nascere subito un hashtag, cioè per chi non frequenta Twitter, un argomento, un topic di discussione. E questo si chiama Fai una domanda al Papa. Al Papa, esatto. E ovviamente... il suo account è Pontifex. La cosa bella è che se andate nell'account Pontifex del Papa, vedrete che lui segue se stesso in altre lingue. Pontifex, sì, it, sì, Pontifex, sì, fr, c'è, sì, anche Pontifex arabo. Esatto. Ad esempio, cioè, leggiamone una così, cioè la prima che capita. Perché non sostituite l'ostia con una fettina di salame? Attira fedeli e tiene lontani i musulmani. Quindi, cioè, le ci domande sono dei fedeli al Papa. Ne ho letta ieri una, la possiamo dire anche se non la leggiamo adesso. Ma visto che la lavatrice vive di più con Calfort, si può considerare accanimento terapeutico? Cioè, questo è l'ordine delle domande. Poi ce ne sono alcune un po' volgarotte, ma sono sempre domande di fedeli poste. Sì, ma non le legge, non le legge. Se sono troppo, qual è? Indicamela. Parliamo di sti comandamenti, chiede qualcuno al Papa. No, no, no, no, questa no, non sono d'accordo. È esagerata, dai, quelle carine sì, questa è troppo. Era una domanda su una fellata. Ma sì, io voglio sapere se le legge veramente lui. No, ma non le può leggere, cioè gliele filtrerà. Come non le può leggere? No, nel senso, no, intanto non ti arrabbierai, sta ingoiando il microfono. Non credo stia sempre lui al computer, gliene diranno alcune, cioè non credo che... Poi qualcuno chiede una domanda musicale, quindi sta molto bene il nostro programma, al Papa. Ha pianto quando è morto Ronnie James Dio? Ricordiamo che è un cantante, si chiama Ronnie James Dio, sì, quindi quando è morto Dio... ovviamente c'è rimasto male. Si chiede se ha pianto, poi un altro chiede, caro Pontifex, cortesemente, potrebbe chiedere al principale se i Maya hanno ragione? Comunque ce ne sono di bellissimi. Oppure, quando lei morirà, la consideriamo una punizione o una... la considera lei una punizione o una promozione? Insomma, ce ne sono di questo tipo. Poi tantissimi. Dubbi esistenziali, sempre che potrebbe risolvere il Papa, se rispondesse su Twitter, mi conferma che le tedesche la danno prima delle italiane. Giustamente, essendo lui dell'Alemagna, come si dice in che cosa? In latino? In latino? Non so, l'Alemagna. Perché Raumico... cioè chiede, hai mai provato a passare per la cruna di un ago? È perché, perché la sai il cammello è più facile che... non so perché paragona il Papa a un cammello. Infatti non è delle, non è, no. Ma quindi Lady Gaga parlava di lei in Papa Razzi, questa l'abbiamo pensata un po' tutti, sì, sì. Io quando lo cantavo, qualcun altro chiede, ma lei spaga bottiglia mazza famiglia come... ricordando non sei pronto? No, neanche io, questo è bello. Ibrahimovic. Bravo, spacca bottiglia, ammazza famiglia. Vabbè, ma chiedere ad Andrea una notizia del calcio è come chiedere al Papa dei preservativi, insomma, non è il caso. Va bene, invece credo sia giunto il tempo, se siamo pronti, non so se... sì, non io siamo devo pronti. Leggere solo l'ultima, qualcuno chiede, Benny, il luogo più trasgressivo dove sì, ha detto la messa. Sì, bellissima questa, il luogo più trasgressivo dove ha detto la messa. Va bene, no. Da presentare c'era un ospite importante che viene dalla Calabria. Tutti quanti avete già capito chi è, ma dobbiamo... ma magari ovviamente... ci sono nuovi ascoltatori che non lo conoscono. Esatto, lui è un ex medico nutrizionista cacciato dall'ordine dei medici perché ha ucciso un malato di ipertensione con la 'nduja. E quindi da allora lui, diciamo, gira le radio di tutta Italia per lavare l'onta di questo diciamo omicidio causato da questa ricetta sbagliata, perché l'anduia, come sapete, è molto pepata e quindi ha causato la morte di questo soggetto. E quindi lui gira tutte le radio d'Italia, gira anche le radio ovviamente del sud, e il mercoledì riesce ad arrivare da noi. Lui, non possiamo non presentarlo senza il suo sottofondo, è Tony Scopelliti. Caro Tony, buonasera. Tony, non ci sono paragoni. Sì, Tony, non ci sono paragoni, lo sappiamo. Come sta? Mi sono autopresentato, mi sento forte. Sì, addirittura. Come stai, buono? Lei come sta? Bene, bene, dov'è il suo nipote? Mio nipote Michelino, lo vado a pirri? Vabbè, l'ho tenuto lontano perché parlavate di Fellazio, di Fella Calabria. Lo so, non è un programma per bambini. No, assolutamente, la dovresti scrivere fuori la porta. Allora, un attimo che le chiamo. Ma qua ora lo vuole chiamare Michelino? No, durante la ricetta, vabbè, lo chiamiamo ora. Michelino! Ecco, mi manco tempo, cioè io te l'avevo detto e arrivo subito. Saluta tutte le persone qua che ascoltano Radio Panorama, la radio che... Ma io non ti ho detto di parlare in arabo. Salutalo in italiano, cornuto. Ciao. Ha detto ciao, che bello. Mi fa commuovere sempre. Cocca. Adesso? Cocca. Mi riconfunziono, sciacquale. Per forza la cacca ora l'affare. Cocca. L'affare ora la cacca, non è che piccino ci può dire no. Allora, vieni cacca ti accompagno. Senti, oggi cosa hai mangiato come merendina? Ci vuoi dire cacca, tu sei figlio di un nipote di un cuoco. Ecco, questo è il piatto che trovate, che farò adesso. È la ghiotta di Natale, ah, giusto? Ah, la ghiotta di Natale. Intanto sparisce Michelino improvvisamente. Ah, Michelino è qui, sì. Se, lo sente? Ma intanto non capisce per chi si inserisce pure Antonio improvvisamente parrà fruido. Ma comunque, parrame la ghiotta di Natale. Sì, dall'acquario c'è proprio un casino. È successo da tutti, i pisci che aggirano l'acqua che va tutti bene. Ma allora, ghiotta di Natale ovviamente... Stavolta per 100 persone. 100 persone. Vabbè, certo. A casa mia a Natale. Di Natale sì, anche se non è l'ultima puntata prima di Natale. Ovviamente Michelino, appena sente parlare di cenone di Natale, impazzisci perché è un porco. I regali. Ricordiamo che Michelino ha un BMI di 41, vuol dire che è alto 1,20 m e pesa 180 kg. Mamma mia. Sì, una cosa immonda. È tutto in larghezza. È una cosa. Un comodino, non è un bambino. È orribile questo bambino. Sembra una moneta gigante che tu fa furriare. È presente sempre io. Però panzuta. Allora, abbiamo gli ingredienti per 100 cristiani. 5 tonnellate di stoccafisso. Ha detto. Quindi è un piatto a base di pesce. Eliminiamo la razza dello stoccafisso. Praticamente sì, sì. Dallo stoccafisso. No. Nel senso che sono arrivato ora. Non vi scivendo non ci fate. Comunque vi beccherete una denuncia dalla guardia costiera. Poi ci vanno ovviamente 5 tonnellate di cavolfiore leccati. Leccati è sicuro. No, lessate. Scusate, scangio sempre lei. Dove le faranno? In diverse pentole? Intanto, o in una grossa? No, no, ci vanno almeno 10 pentole. Però 10 pentole. Chi da più grande è l'auge che ci girano al centro, tipo come una fosse una processione. Ho capito. Ma poi non è una processione, in casa è un rituale. Vabbè, un sub. Poi ci vuole, infatti fatelo di sabato, non ve lo scordate. Ma... poi ci vuole una cipolla ciopea, ma proprio grande quanto tutta ciopea. Ma come? Ma non si trova esiste. No, no, lei deve mettere tante cipolle in un coso. No, le ermina si uniscono e fanno una sola. Eh sì, lei deve però aprire prima, capito? La, la sbucciare. Sì. Poi ci vogliono 4 tonnellate di pomodori pelati a pezzi. Sì, i famosi tonnellotti. Quelli a pezzi. Quindi si tagliano a pezzi e poi abbiamo 100 kg di olive bianche, quindi un po' meno di tutte le altre cose. Quindi distruggiamo gli alberi con le olive. Vabbè, 100 kg non è che sono assai. Vabbè, beh, lo cioè, dico alla per 100 fine... mezzo albero, sì. No, sì, vabbè, ma non capisci niente, non è mezzo ma, albero. Vabbè, niente, io non me ne intendo di è una crapa. Allora, poi ci vanno 2 tonnellate d'uvetta. Di uvetta, sì. Che se non si ferma, ovviamente, che fa? Passa. Passa, certo, non saluta. Se non si ferma, e non saluta. Poi ci vanno 100 kg di pinole, quindi addio ai pini. Anche i pini? Sì, sì, vanno via. E poi cappere, mi stavo scordando dei cappere. I pinoli, diciamo, vanno presi nella come si chiama? La pigna. La pigna colata. Oppure si possono comprare già sbucciati. No, no, tutta la pigna sana. Tutta la pigna sì, sana. Sì, infatti chi di canna d'intera è meglio che mangiano. Per Ducenone ci dice, nonna, mi spiace. Anche il legno della pigna. Anche il legno della pigna c'è, sì, assolutamente. C'è sapore. Avrete denunce ad un ban. C'è mare, terra e di aria. Però è una ricetta che va fatta per Natale. Assolutamente, però i nonni non hanno a mangiare perché è duro. Certo. Occhio d'oliva, una vasca, come sempre. C'è una vasca, potete tenere a casa solo per l'occhio. Non dica quella battuta solita, dica semplicemente. Sale e non fa male. E non fa male. E poi abbiamo il procedimento. Come si fa questa ricetta? Ripetiamo, quindi lungo 5 tonnellate il di procedimento fisso, 5 è lunghissimo, tonnellate quindi... di cavolfiori lessati, una cipolla gigantesca quanto tropea, 4 tonnellate di pomodori pelati, 100 kg di olive bianche, 100 kg di capri, 100 d'ovetta, 100 di perole con tutta come si chiama? La pigna e l'olio d'oliva in una vasca e il sale che non ci fa male. Procedimento. Dai. Chi si è complicato? Quindi pronti con penna perché io vado carta veramente penna, veloce. Ad un succo di pomodoro con abbondante occhio aggiungete gradualmente tutti gli ingredienti lasciando per ultimi pesce e cavolfiore. Basta, è finita la ricetta. Mi raccomando gradualmente. Gradualmente. Gradualmente con la velocità con cui parlo. Te e o pomodoro, te e le capperi, te e minivo. Arrivederci. Sono tonnellate, quindi insomma salutiamo Toni Scopelliti. Ci metterete un po' a fare questa ricetta. Infatti ve l'abbiamo data oggi perché avete così un po' di giorni, 20 giorni per prepararla questa assolutamente ricetta. Sì, lui se n'è appena andato, l'ho accompagnato. E adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, lo dedichiamo a Laura che si è appena collegata con noi, i Red Hot Chili Peppers con Look Around. Stiff club, it's my nature, custom love is the nomenclature, turn down mass confusion, hit the road cause we just keep cruising, double my fun, double my vision, long hard look at my last decision, hustle here, hustle there, hustle me bitch and you best beware, it's emotional, and I told you so, but you had to know, so I told you, soft walk,

eccoci qui mentre Andrea, per chi sta apprezzando in webcam il programma, continua a ballare, a farsi prendere dalla pula che bussò. Io adoro Fabri Fibra. Un grande Fabri Fibra. Lo vorremmo vedere dal vivo, ma ancora in Sicilia. È venuto l'altra volta a Palermo? È venuto a Palermo, però io non sono potuto andare, mannaggia. Porca la miseria, mannaggia. Salutiamo anche Jessica, Alessandra e Valeria che ci stanno ascoltando. Tutto pubblico femminile. E la cosa non ci dispiace affatto. Anche il pubblico qui in studio è femminile. Femmine, applaudite. Ragazzi. Femmine. Applaudite. Signora, che ne ha pensato dei Fabri Fibra? Signora, non ce lo dice, la signora non parla? Che bella musica. Va bene, ma sempre bando alle ciance. Sì, esatto. Bando alle ciance perché è in linea che sta scalpitando. Non lo sappiamo se scalpita. Abbiamo comunque in diretta il piacere di avere Rubens. Ciao Rubens. Buonasera a tutti. Ciao, come stai carissimo? Bene, voi come state? Bene, benissimo. Non lo senti? Spariamo cazzate, tu devi consigliare. Quanto più cazzate spariamo è direttamente proporzionale al nostro benessere, ok? Allora, senti un po', noi dobbiamo parlare del disco Mai Come Ora. Sì. Assolutamente. Se vuoi comincia a parlare tu, guarda, voglio che inizi a parlare tu, poi le domande le cominceremo a fare noi, ti interromperò io. Dici un po' com'è nata l'idea di questo disco, in quanto tempo è stato più o meno concepito, dal momento in cui hai pensato di farlo, di scrivere questi pezzi, al momento in cui è stato rilasciato. Raccontaci tu un po'. Allora, l'idea del disco è nata fondamentalmente un paio di anni fa, dopo la mia partecipazione alla compilation Can't Stop the Music, distribuita da Universal e prodotta dalla Sonetta Sound System. Da lì è nata, diciamo, comunque la mia necessità, dopo la prima volta, no, dopo aver fatto la mia prima canzone ufficiale, di fare un po', comunque, no, un po' chiarezza in me, cercare di darmi un'identità musicale, di creare qualcosa di mio. E quindi da un anno e mezzo a questa parte abbiamo lavorato appunto al disco Mai Come Ora, e da lì poi ci ritroviamo qui, insomma, Radio Panorama. Ascolta Rubens, ma l'idea di un concept album come è venuta e soprattutto qual è la linea che unisce il concept album dalla prima all'ultima canzone? Sì, allora diciamo che comunque io vengo dal soul e avvicinarsi comunque a produzioni di nuova generazione, quali comunque il mio style, l'R&B, l'hip hop, il rap, eccetera. Insomma, questo disco che è un concept album, all'impatto è pop, diciamo, per la sua fluidità musicale, però ha un background anche abbastanza grosso, diciamo, c'è la fusione di abbastanza stili musicali. Poi veramente lavorando nello studio del Sound System abbiamo cercato di colorare il tutto con, diciamo, il clou di tutto di tutto e di più, insomma, il clou di tutti gli stili musicali che possiamo dire un po', diciamo, che passami la cosa, il termine, diciamo, il termine forse per racchiudere un po' lo stile del disco, è un disco reggae R&B. Non so se me lo fai passare, sì, questa. Sì, ok. Te lo passo. Perfetto. Ora si rivende il reggae R&B, però è vero. Esatto, adesso inizia il nuovo stile reggae R&B rubato da Radio Panorama. Allora, senti un po', tu con i Sud Sound System hai cominciato a collaborare quando? Nel 2010, quindi sono più di due anni. Quando è stata creata la compilation, appunto, con tanti altri artisti, e fui contattato anch'io per provare, e si vede che è piaciuto quello che ho fatto, e mi hanno dato anche questa opportunità di pubblicare un disco tutto mio, insomma. Ecco, hai anche collaborato con altri artisti, sempre salentini, leggo anche le Prela, sì, Class, se non sbaglio. Sì, Valerio Combasso ha partecipato all'arrangiamento di vari pezzi del mio disco, il bassista della Prela Class, poi naturalmente hanno partecipato su Sound System, nel pezzo Mai Come Ora, ha partecipato Don Fabio e Clementino in un altro pezzo del mio disco e Don Rico ancora in un altro pezzo, quindi diciamo è un disco abbastanza ricco e colorato. Senti, ma sei in tour o stai programmando un tour per caso? Allora, le prossime date che farò, naturalmente sarò insieme ai Sud Sound System, farò da spalla, sono il 14 dicembre a Trezzo sull'Adda. Scusami, sarai come novembre. Spalla o aprirai il concerto? Non ho capito. Sì, aprirò il concerto. Ah, aprirò perfetto. Il concerto col mio disco. Il 14 dicembre a Trezzo sull'Adda, il 15 dicembre all'Intifada a Roma e il 28 dicembre ci sarà la presentazione ufficiale al Palarock di Aradeo, nel quale ci saranno i Club Dogo come artisti principali. Noi li passiamo spesso e volentieri i Club Dogo qui a Londa in Onda. Sì, sono bravi artisti. Assolutamente sì. Bene, allora io una domanda, noi ce la riserviamo sempre, sarà banale, però lo chiediamo sempre. Un pezzo al quale per un motivo tuo sei più legato in questo album, quello che diresti, ascoltalo e poi vedi un po' se ti viene voglia di comprare l'album. sul pezzo, guarda, diciamo un legame, sono legato un po' a tutti i pezzi, sarebbe diciamo, certo, non, è come scegliere tra i figli, sì, tra uno dei figli, però noi ti chiediamo comunque, sì, però, così distinto, guarda, se devo essere il più sentito, secondo me è La Prima Traccia, Il Mio Cuore Libero. Il tuo cuore, il tuo cuore, certo, perché ovviamente Il Mio Cuore, io subito Il Tuo Cuore, scusa, avevo trasformato il titolo, Il Mio Cuore Libero. Il Mio Cuore Libero parla un po' comunque della situazione che un giovane vive al giorno d'oggi nel sud. Naturalmente diciamo che è un brano che racconta la visione che ha un ragazzo dietro le sbarre, però comunque nel pezzo si intende, nel vero senso della parola, le sbarre, la perdita della libertà, però comunque queste sbarre devono essere anche metaforiche, perché a volte comunque il contesto in cui si vive ci imprigiona in una realtà che ci costringe a fare delle cose a volte che non ci danno via d'uscita, e questo è triste. Metaforico. Sì, come tu ben sai, vivendo in un contesto che non ti offre nulla, a volte un ragazzo che non ha una guida è costretto a perdere un po', insomma, il percorso naturale e finisce a sua volta in brutte strade. Quindi Il Mio Cuore Libero è un monito, nel senso di dire che la violenza, vivere nella violenza, nell'assio e nel rancore non serve, perché a un certo punto ti accorgerai che appunto il tuo cuore è libero senza queste cose, quindi bisogna abbandonare l'arma metaforica che è la rabbia, che al giorno d'oggi accompagna tutti i giovani per via di vicissitudini varie. Quindi, ma senti, invece Mai Come Ora di cosa parla? E poi ce l'ascoltiamo. Mai Come Ora è racconto di una storia d'amore, in pratica non la classica storia d'amore che magari si può sentire nelle canzoni del vissuto, diciamo, cantato orale italiano. Parla della storia, insomma, abbastanza tortuosa tra un ragazzo e una ragazza, nel quale lei cerca di spiegarsi, cerca di trovare motivazioni per le quali poter continuare a vivere questo rapporto con lui, ma fondamentalmente non ne trova, perché diciamo che l'amore è una grandissima contraddizione, e quindi odiandolo e amandolo alla fine i due si separano, e quindi rimane soltanto il vuoto, diciamo, e la domanda: cos'è che non è andato, insomma. Capisco, che si inserisce benissimo tra l'altro nella nostra classifica le 10 frasi dell'uomo col mestro. Assolutamente, sì, noi stiamo lanciando questa classifica dell'uomo col mestro, quali sono le frasi tipiche dell'uomo più o meno, come dire, arraffone, sì, furbacchione. Sì, e quindi no, lanciamo nulla togliendo alla canzone. Assolutamente, Rubens, assolutamente. Però, diciamo, magari è la complicatezza dell'amore. Sì, se lui continua a seguirci potrà sentire il resto della classifica. Va bene, Rubens, noi ti ringraziamo per essere stato qui virtualmente i nostri microfoni, via telefono, ma figurati. E adesso, come aveva appunto anticipato, un grande in bocca al lupo, assolutamente grandissimo in bocca al lupo, crepi. E come aveva anticipato il mio collega Andrea, adesso ci ascoltiamo il tuo pezzo Mai Come Ora featuring i Sound System. Ciao ciao ciao, arrivederci, buonasera. Ma non vedo niente, solo confusione, polvere, vedo se c'è una stella per me. Tutti cadegri senza difetti. L'ultimo in forma finito con rifletti. Ho io comprato lecchi, ben sveglio di sto sogno. Oh sì, e mo' in cavuazzo detto, bueno, c'ha lecchi doi. Dice cime, uè, cime dai. Qui tu ca tieni da intro, qui tu ca olio da chiui. Subito sento, se c'è passione ancora fra noi doi. Mi asciuto pure in capo al mondo, prima che capisco che tutti è asciuto un funno. Ma mo' io sta donno, mo' dentro sta cine e mi sorgo. Sì, ed è ciò che l'ha sbagliato, mo' mi accorgo. Basta me guardi cubi di vedi e c'è passo. No, non pensare che io non te capisco. Tu sento c'è sta provila se ci riesco. Me basta picca pure uno sicuro gesto. Cerco in te il buono che in me, ma non vedo niente, solo confusione e polvere. Vedo se c'è tanti passi falsi nella vita ancora, mi ritrovo a farne altri peggiori di allora. È come se non bastasse, ho rotto il cuore, il male riaffiora. Ho sofferto altre volte ma mai come ora. E poi ti spieghi cos'è che non va, un bivio tra sogno e realtà. Vivi o muore, soffri la metà. Dove sono le gioie, gli abbracci, quei sorrisi insieme, la rabbia, i dolori, i bei momenti condivisi. Stai con me, perché stanotte non finisce mai. Stai con me, perché soltanto io so ciò che vuoi. Stai con me, perché stai sempre dentro i sogni miei. Stai con me, stai con me, stai con me. quando domani poi ti sveglierai, dimmi cosa ti resterà di noi, nel cuore un posto vuoto lascerai, perché tu non stai più con me. Eccoci qui ancora con... Bello il pezzo, mi è piaciuto. Ti è piaciuto, hai visto? Mai come ora dei Sud Sound System featuring Rubens, che non è Barrichello, non è neanche il pittore, ma è Rubens, un ragazzo di Lusalentu. Allora, sono le 19.49, siamo sempre qui, l'Onda in Onda, Radio Panorama, la radio che vi ama e vi odia allo stesso tempo, in diretta dagli studi a Termini Imerese. Per vedere l'amore. Per vedere l'amore. Torniamo alla classifica delle 10 frasi di un uomo col maestro, ne abbiamo già dette 4. Allora siamo qui pronti per la top 6, diciamo così. C'è sempre qualche telefonino che mi turba in sottofondo e... Prego Andrea, questa è tutta tua. Al sesto posto, amori che non sbocceranno mai a causa di compagnie telefoniche avverse. Era una bellissima ragazza, ma sai com'è? La storia non poteva funzionare. Lei Wind, io Vodafone, niente chiamate o messaggi gratis. Per me fare economia in tempo di crisi è importante. Poi non aveva neppure Facebook, perciò è stata dura per me, ma meglio così. E poi c'è la variante però. Assolutamente. Il musicista. Ero immerso nella musica, concerti e registrazioni. Non ho trovato un minuto per scriverti un messaggio in 5 giorni. Che grandi stronzi. Ma andiamo subito alla posizione numero 5. Che è no. Semplicemente il nome della posizione è no. Non mi manca la mia ex, mi manca solo lei come persona, la sua bellezza ed alcune dinamiche che si erano venute a creare tra me e lei. Cioè, vorrei capire, quindi le manca tutto. Vabbè, manca, andiamo tutto. Al quarto posto. Quarto posto, per riservarci poi il podio più tardi, è l'uomo del ora non, ora lo so. Lo posso leggere io? Sì, certo. Sai perché ho capito che ti amo? Perché quando mi capita di stare con donne più belle di te, io ti penso comunque tantissimo. Ricordiamo che queste sono le 10 frasi dell'uomo, le 10 frasi dell'uomo col maestro, e vi invitiamo a seguire il podio di questa classifica. Sì, che arriverà dopo il prossimo pezzo e dopo la pubblicità. Ragazzi, qui questa la annunci tu. Sì, Radiohead, Creep. Vai. love you want. Io te lo sei. Voglio stare insieme a te. Pasco, vattene a casa. Non ti piace il pezzo, sì. Hai rovinato una canzone. Vasco, via, via. Dobbiamo continuare la nostra classifica. Assolutamente, siamo sempre sulle 10 frasi di un uomo col maestro. Ci siamo sparate le prime 7. Andiamo al podio. Abbiamo il rullo di tamburi? No, non ce l'abbiamo. Manco per non niente. Non preoccuparti. L'argomento la è la luce. Ora che sei dimagrita inizio a vedere quanto tu sia realmente bella come persona. Questa è stronzissima da morire, però qualcuno l'avrà detta per essere qui. Secondo, l'argomento è forward. Siamo, forward, attenzione, al secondo posto, forward. Non è che non ti amo, è che l'idea di pensare a un futuro insieme a te mi è impossibile. Poi c'è la variante però, quindi l'ex equo al secondo posto, non chiamare ore pigiama. Lui... Ti prego, non mi lasciare. Mi spiace, ma è finita. Non ti va di fare mai nulla. Ma io ti amo e sono disposto a qualunque cosa. Ok, allora vediamoci ora per parlare. Scusa, ma io sono già in pigiama. Tremenda. La scusa del pigiama è sempre tremenda, ma attenzione, siamo al primo posto e l'argomento è se un uomo non ti parla. Ricordiamo dialogo. Che questa è sempre la classifica delle 10 frasi di un uomo col maestro. E adesso abbiamo il primo posto, l'argomento appunto è se un uomo non ti parla. Vediamo il dialogo tra lui e lei. Lui: guarda che se un uomo non ti parla è perché non gli interessi. Lei: ah, ma allora come mai non ci hai ancora provato con quella che ti piace? Lui: vorrei, ma lei non mi parla. Grande, grande standing ovation finale per questa grandissima classifica delle 10 frasi. Le 10 frasi in un uomo col maestro. Comunque manca quella, cioè, che ho sentito io personalmente: ti lascio perché ti amo troppo. Sì, è vero. Ma quella esiste, quella, cioè, esiste. Io pensavo fosse finta, ma qualcuno l'ha detta. Però è sia maschile che femminile. L'hanno detto. Sì, quella è bisex. Quella ma è bisex. Io credo che la peggior scusa quando si lascia qualcuno, vediamo se ne convenite anche voi, pubblico. Scriveteci, diteci qual è la frase secondo voi più stronza dell'uomo da maestro al 380-7690-204. Invitiamo tutti voi, maschi e femmine, a dirci la vostra. Se vuoi. Io penso positivo perché sono. No, io penso che la peggior frase sia: io ti lascio, ma spero di trovare un altro come te o un'altra. Dico, ma cazzo, ma se c'è già lui o lei, perché ne devi trovare un altro? Sì, infatti. Non, cioè, te ne andare, è controsenso. Cioè, che se tu dici ne cerco un altro opposto, allora d'accordo, ma se trovi un altro uguale, ce l'hai già lì. Secondo me come è proprio. Quando tu lasci qualcuno e quel qualcuno ti dice: non troverai mai nessun altro come me, grazie, ti ho lasciato. Ti ho lasciato, sì, e quello lì ha senso, ma non quello che ti dice: no, io ti lascio perché cerco un altro. Va bene, uguale. Comunque, vi informiamo che probabilmente o più tardi, se riusciamo ad avere tempo, o la settimana prossima ci occuperemo invece delle 10 domande più stronze che ti faranno sui tuoi tatuaggi. Ma quindi... io invece direi che chi è tatuato può già cominciarci a dire la sua. Magari la iniziamo ora e la completiamo la prossima. No. Io direi fare soltanto il decimo posto. Tanto sì, un anticipo, poi lo diciamo anche facciamo, la prossima settimana. Facciamo una prova. Io arrivo da te, tu sei tatuato, noto il tatuaggio, magari scorge da una spalla, e ti chiedo: bello, ma che significato ha? Nessuno. Nessun cazzo di significato poetico proveniente dal subconscio, caro il mio Freud della bassa. Era un bel disegno e mi andava di tenermelo addosso. E comunque, anche se mi avesse un chissà quale, anche se avesse un chissà quale intenso contenuto, mica lo verrei dire a te, che sei profondo come i solchi di San Pietrini. E chi ti conosce, vaffanculo, ciao. Questa è la possibile risposta che possono dare i tatuati. Questo che è solo il decimo posto della classifica. Quindi non vi lasciamo, anzi immaginare gli altri 9 posti. Senti Andrea, ma io vorrei vedere se riusciamo a collegarci velocemente. Quanto abbiamo? Quanto tempo? Niente, non ce la facciamo. 2 minuti e mezzo. Vedo prima della pubblicità. Allora facciamo così: ci ascoltiamo un pezzo, torniamo dopo la pubblicità e poi autopunizione con i film brutti.

Tutto bene, tutto bene. Fa freddo lì? Fa freddo in Toscana? È un freddo molto punitivo, no. Devo dire, sì. Quindi noi consiglieremmo di vedere il film di stasera. Se potete, mettete una prolunga e lo guardate sul balcone, proprio per soffrire ancora di più, va bene? Assolutamente. Che film ci proponi questa sera? Vai! Stasera c'è veramente un film eccezionale che si intitola Quella villa in fondo al parco. È già, il titolo è un programma. Tipo cioè, la casa là, titolo, la villa là. Chi ci segue su Facebook, esatto, il titolo già lo conosce, ma spiegaci questo film. Allora, è più forse pregnante il titolo inglese, che è Ratman. Ma come il fumetto? Come il fumetto? Come il fumetto? No, oppure Ratman in Giappone, che questo film è uscito in tutto il mondo, quindi insomma si sta parlando di una produzione che ha avuto anche un certo successo. Un blockbuster, quindi. È fondamentalmente un blockbuster, che fondamentalmente è incentrato appunto su questo mostro, che risulta essere... praticamente il frutto dell'unione dello sperma di un topo nell'utero di una scimmia. Che, quindi praticamente c'è questo esperimento genetico che stranamente ha successo e partorisce questo. Sì, stiamo vedendo il frutto. Sì, stiamo vedendo il frutto dell'amore, diciamo, lo stiamo vedendo esattamente su Google. Questo ominide che è catalogabile, diciamo, ricorda un po' una specie di Pinocchio bruciato. Sì, esatto, bravo, bravo. Esatto, che praticamente comincia a mietere vittime all'interno di questa villa dove questo scienziato pazzo cioè, si è rintanato per... È uno dei mostri più simpatici che io abbia mai visto. Cioè io vedo le foto, sto morendo alle risate solo a vedere la faccia. È un mini me. Esatto. Assolutamente, esatto. Anche perché appunto interpretato da quello che poi in realtà era vero nano nella vita, purtroppo, che appunto è stato ulteriormente messo umiliato nell'affrontare questo ruolo, con estrema professionalità tra l'altro. Ma stiamo leggendo che la protagonista è Eva Grimaldi. C'è anche Eva Grimaldi all'interno di questa situazione. E che zin, scusando il francesismo, che zin, ragazzi. Se non sbaglio, dico, è lei nuda nelle immagini che vediamo. Esattamente. Ok, esattamente, quindi questo film merita di essere visto. Assolutamente, siamo una delle scene alte, sicuramente quella della doccia, ma ovviamente il film si regge su quelle che sono le aggressioni del nostro mostro, del nostro Pinocchio bruciato, che praticamente riesce sempre a spuntar fuori un po' da qualche buco nella parete, no? Da qualche porta socchiusa, e in 448 uccide, diciamo, il malcapitato di turno, perché con i suoi artigli, diciamo, riesce a trasmettergli una specie di leptospirosi fulminante e il povero malcapitato, diciamo, ci lascia immediatamente le penne. E poi in realtà la trama non esiste, io ho avuto un parlato di una certa situazione all'interno di questa villa, c'è qualche personaggio che passa di lì, non si sa bene perché, è un po' il scopione è molto improvvisato, insomma, no? Sembra proprio di vedere gente che dice vabbè vai, ora facciamo questa scena, poi sì si fa che io faccio questo, poi si fa quest'altro, senza, diciamo, una vera concatenazione di eventi, insomma. E tutto è, diciamo, finalizzato al fatto che il mostro possa ammazzare la vittima di turno. Ma come si sconfigge il mostro? Esatto, perché ce lo stiamo chiedendo. Non si sconfigge. È immortale, infatti, è immortale. Infatti, esatto, è emblematico, diciamo, il finale della pellicola in cui si vede praticamente un aereo decollare, si ha il fermo immagine dell'aereo che decolla e una serie di urla a caso che praticamente ci fanno intuire che il nostro mostro si sia intrufolato in questo aereo e stia seminando lo scompiglio all'interno dell'aereo. Probabilmente l'aereo poi si schianterà al suolo perché prima di guida morirà anche il mostro, ma questo non è dato saperlo. Non c'è dato saperlo, assolutamente, assolutamente. Insomma, un bellissimo film, una scena clou, ci puoi dire qual è di questo film, così lo consigliamo? La scena clou? Sì, una che consigli, appunto, per invogliare il nostro pubblico ad autopunirsi con gioia. A parte la doccia, ovviamente. C'è, diciamo, l'aggressione di quando il mostro spunta fuori dal pozzo, che è veramente micidiale. Quella è assolutamente incredibile, veramente imperdibile, perché più che un pozzo è proprio un cesso. C'è proprio una delle protagoniste si rintana in una specie di stamberga attinente vicino alla villa, il nostro mostro riesce praticamente alle tubature a sortire fuori questo mega cesso e a farla fuori in maniera piuttosto brutale. Con cosa accompagniamo, diciamo, culinariamente questo film, la visione di Ratman? Allora, lo vedrei bene con un trash snack del defunto Blockbuster, che è la galletta di mais. Quindi facile da trovare. Anzi, ricordiamo il Blockbuster, che purtroppo appunto è defunto. È triste anche entrare nel sito. Non più così facile da trovare a questo punto. Ma vanno bene anche le gallette di riso, non so, non diciamo altre marche, ma quelle che si trovano al supermercato vanno bene. Non so se sono altrettanto punitive, ragazzi. Quindi quelle erano proprio terribili. Vabbè, quelle erano terribili perché praticamente era praticamente materiale edile di scarto. Ma scusa, se ne facciamo comprare le gallette di mais al supermercato scadute, non sono altrettanto punitive? Probabilmente sì. E allora tutte le scadute, diciamo, però lì magari diciamo il danno è provato da, appunto dal fatto di essere in scadenza, non è che magari sono così perché sono così. Diciamo che può essere solo un succedaneo, perché visto che Blockbuster Italia non esiste più, ahimè, insomma, vabbè. Però Marco, io devo dirti che questo film lo vedrò con piacere, se lo per la presenza di Eva Grimaldi nella scena della doccia, che su Google quindi sta facendo appassionare al film. Sì, c'è uno screenshot, c'è uno screenshot interessante. C'è solo un capello sopra gli occhi che sembra un imbarazzante monociglio alla Bergomi, ma credo che siano appunto i capelli scombinati. Va bene, Marco, noi ti ringraziamo. Ricordiamo sempre qui con te che fra 2 settimane esatte, anzi no, esattamente 15 giorni, quindi giorno 20 dicembre alle ore 22, ci sarà la puntata speciale insieme tra l'altro ai ragazzi di Positive Vibration. Aspetteremo insieme la fine del mondo. Ancora non sappiamo che nome daremo a questa puntata speciale, però lo faremo sapere presto. E Marco ci sarà con noi, ormai lo ha confermato, quindi vi aspettiamo tutti, oltre che nei prossimi mercoledì, anche giovedì 20 dicembre alle 22, sempre su Radio Panorama. Marco, noi, io, Andrea e Brumma, ti ringraziamo sempre tantissimo per la tua partecipazione presente e attenta, per i tuoi consigli. Quindi questa sera guardate questa villa, quella villa in fondo al parco, ne vale veramente la pena, conosciuta anche come Ratman. Sì, esatto, e noi ti ringraziamo come sempre per tutte le autopunizioni che ci regali. Ciao ragazzi. Ciao Marco, alla prossima. Adesso ci spariamo un altro pezzo, lo voglio dedicare a Grazia, un'altra ragazza che ci sta ascoltando, e al dottor Luigi, e questa è Celebrate del grande Mika. Non è il tuo ragazzo Mika? Sì, da sempre. Ah, me lo sapevo. I wanna come home to the only place I know, where the trees I planted grow. siamo qui tutti insieme a ballare con Mika featuring Pharrell Williams, che non vorrei fosse il suo nuovo ragazzo e ti ha tradito, Andrea. Sì, lo so. Ricordiamo che Andrea in teoria è un maschio, però lui ha una certa passione. In teoria. Diciamo che sul profilo genetico è XY, in realtà ha una grande passione per le labbra di Mika. Sì, no, guardavo il computer che è impazzito, mi chiede di farmi una donna ogni settimana. Sì? Sì, no, hai presente le pubblicità che ti si aprono? Ah, sì, sì. Preparati, sì, a fare... Tutti qui sui Mythic, conoscerai la donna della tua vita, esatto. Vieni con noi. Allora, vediamo un po' gli appuntamenti di questa settimana. Questo che... lo devi dire perché c'è una mia amica che balla. Va bene, che ci sono a Palermo. Venerdì, questo venerdì... Infatti non è Palermo ma è Cireale. Nulla che fare, vabbè, Palermo, provincia. Casanova in 3D. Che provincia di Catania. Ma sì, ma va... Palermo, provincia e anche altre province. Ecco, ora ti sei salvato, in Kona. Il musical che farà uso della tecnologia 3D live live. Non so perché due. Credo live. Sia un solo live. Comunque, come si chiama il musical? Casanova in 3D. L'ho detto, sviluppata e perfezionata da meno di un anno, che permetterà agli spettatori una visione tridimensionale in real time grazie ad appositi occhiali polarizzati. Il protagonista è Dario Inzerra, che vestirà i panni di un giovane. Alle 21.30. Perché non si completa la notizia? Un giovane dovrei Casanova. Dovrei aprirla, ma mi ore 21.30. 25 euro platea, 15 euro il posto unico al Palasport, il Pala Tupparello, vi aggiungo io 10 reale. Poi cosa abbiamo invece a Palermo, al Palab? Al Palab abbiamo Touché in elettrico, e i Touché si esibiscono con una scaletta di brani interamente italiani degli anni 60 e 80. La band è composta da Susanna Gattuso alla voce, Gianfranco Attardo alla voce e chitarra, Ivano Mulone voce e tastiere, Francesco Chiazzese basso e Vicen Purple batteria, a seguire DJ set a cura di Ger. E questo alle ore 22.30 con ingresso gratuito previo tesseramento, come sempre, per, sul Palab, sul sito del Palab. Jerry, non lo so. Jerry Calà. Poi abbiamo corno protagonista, poi chiama Vlatnovic. Intanto chi è il protagonista? Ripeti che non si è capito. Corno. Cos'è il corno? Il corno è il corno. È uno strumento, quindi come? Affiato. Affiato. Invece gli strumenti, ad esempio, a corde quali sono? Il violino, la chitarra, il violoncello. Della famiglia della del violino e del violoncello c'è anche la? La viola. Bravo. Poi l'oboe è affiata, però. Poi l'oboe, cioè, è affiata. Volevo solo dire oboe. L'hai detto con una faccia che sembrava il protagonista di Ratman, sai, quell'omino di prima. L'oboe, provate a dire oboe. Oboe. Oboe. Oboe. È bellissimo. Ditelo tutti insieme al nostro via. Uno, due, tre. Oboe. Va tutti bene, in allora, macchina dire oboe. Corno protagonista al Politeama, Vlad. No, vice, questa non è la scelta. Non c'è la N. Questa è la scelta boom. Ma non sia 7, 7. 7. Porca puttana. Comunque non c'è la N. Vlatkovic. Vlatkovic interpreta il secondo concerto di Strauss. La musica tedesca dell'Ottocento è protagonista al Politeama Garibaldi del prossimo concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana in calendario venerdì 7 dicembre alle ore 21.15. I tre compositori in ascolto sono Johannes Brahms. Richard Strauss e Anton Bruckner. Bruckner, famosissimi, come fa a sbagliare? Nella ma quali attori? Autori? Attori! Se sono dei compositori, perché improvvisamente hanno un altro mestiere? Nella cui musica di retaggio di... Va bene, ore 21.15, da 25 a 10 euro, sempre scegliete, offerta libera. Dipende se volete vedere Strauss, Bruckner o Brahms. Queste notizie le aprirei proprio per farle leggere tutte. Andrea. Esatto. Tutte. Senti, Andrea, oggi sono proprio al Politeama Garibaldi. Ecco, infatti io sono oggi di domande stronze, ma tu sai cosa significa Politeama? Certo. Che vuol dire? Perché il nome del teatro è Garibaldi, però è un Politeama, polis, ovvero... cittadini... in questo caso è poli nel senso di tanti. Tanti ama, ama tanti. È un teatro che tanti ama. Te ama. Che ama tanti, cioè che propone tanti temi, quindi è un teatro polivalente, questo significa il Politeama. Politeama, il teatro che ti ama, come, okay, radio panorama. Ovviamente. Torno a casa a piedi, il concerto di Brumma che ha bucato la macchina, no, il concerto di Cristina Donà, che tra l'altro abbiamo, se non sbaglio, intervistato. No. Assolutamente no. E chi è che ha intervistato? Un'altra, quella che non, quel giorno in cui non c'ero io. Non lo so. Vabbè. Ah, Andrea Mirò. Ho sbagliato. Andrea Mirò e Cristina Donà. Perché Mirò è Donà. Certo. Torno a casa a piedi, assorta nei miei pensieri, fischiettando qualche canzone, guardando i ragazzi in bicicletta, la gente con il cala guinzaglio e i bambini con ogni arpa. Stai leggendo come se ti dovessi addormentare. Preferisco tornare a casa a piedi se lo spettacolo è questo. E forse proprio questo immaginario si è rifatto. Immaginario si è rifatta Cristina Donagrev. Vabbè. Ora 21.30, 16.50. Scegliete quindi anche l'orario. Ah no, 16.50. Posto unico. Ai candelai a Palermo. Poi, niente. Poi basta. Per sabato invece chi vuole essere miliardario può andare a giocare da Jerry Scotti, esatto. Oppure chi resta a Palermo può andare a vedere di nuovo Cristina Donà, però ma ai mercati generali di Catania. Ci sono invece i tre terzi, molto bello, alle 21. Sì, sì, sì. Il concerto dei tre terzi, gruppo composto da Claudio Terzo, voce, chitarra e basso, Ferdinando Moncada, voce, chitarra e armonica, Nicola Liuzzo, voce e batteria, e Diego Tarantino. A seguire DJ set, ora 22. Ingresso gratuito, previo testamento su palab.it. Io vi consiglio di andare a vedere, sono molto bravi. Sono bravissimi. Poi ci sono i Pooh. I Pooh, a Favara però. Sì, che piacciono molto a tua madre, se non sbaglio. Esatto. La formazione attuale vede la presenza di Robby Facchinetti, voce, tastiere e pianoforte, Do di Battaglia, voce, chitarra e tastiere. La smetti? Vabbè. Red Kanzian, voce, basso elettrico, chitarra, flauto, dolce, violoncello, contrabbasso elettrico. E tutti... l'ha detto senza sbagliare, per favore pubblico, per Andrea. Grazie, grazie. Il primo nucleo della band, che un giorno si chiamerà Pooh, nasce a Bologna e non poi la studiate voi. 21,30, 40 euro poltronissima, 35 euro e 25 euro poltrona, quindi due volte pagate, 35 e 25 euro e 15 euro posto unico al Palasport di Favara, a Favara, quindi. Incredibile, ha detto tutta una notizia senza errori, chissà chi si sarà fumato. E poi Dogs Live at Rocket Bar, continuano gli appuntamenti settimanali con la musica del Rocket Bar. Questa settimana salgono sul palco i Dogs con il loro punk rock direttamente da Vicenza. Nati nel 2008 da un'idea di Menenze dei The Rock. Eccolo, eccolo! Escono nel 2009 con il primo lavoro su CD Let's Go to Cancun e danno il via ad un'intensa atti giudiziari, atti, poi si vede attività in siciliano. 22:30 ingresso gratuito al Rocket Bar a Palermo, mentre quindi tu sarai accanto all'exit, sappiamo anche perché. Esatto. Allora, che ore sono? Un attimo, parlando dell'exit, vi invito il 14 a venire alla facoltà di scienze politiche, che si terrà il primo, la prima tappa di quello che poi porterà al Pride, al Gay Pride di Palermo, che sarà tra l'altro ospiterà il Pride nazionale. Il Gay Pride nazionale si terrà a Palermo, quindi una delle prime tappe è quella appunto di giorno 14 alla facoltà di scienze politiche. La locandina è facile riconoscere perché c'è la mia faccia tutto dipinto insieme ad Alice. Senti, ti lancio una provocazione poco prima del prossimo pezzo, ma non pensi che magari, dice qualcuno, i soldi che il comune sta spendendo per aiutare la realizzazione di questo Pride da Palermo, comunque grande evento, potevano risparmiarseli per delle cose ancora più importanti che interessano Palermo? Non nulla contro i gay, perché sai bene come la penso, ma l'avrei detto lo stesso per un Family Day o per qualunque altra cosa che non era prioritaria, diciamo. No, perché il Family Day non è nulla di culturale, è semplicemente una manifestazione per politica che è orientata verso un'idea di famiglia abbastanza diciamo retrograda, no? Mentre il Gay Pride non è soltanto la sfilata come qualcuno crede, ma in realtà è un complesso di eventi culturali che si tengono in diversi giorni, e la manifestazione finale è l'ultima tappa di questi eventi. Però dovrebbero anche però pensare, soprattutto dato che il Pride nazionale si tiene a Palermo, è un motivo di orgoglio per la città, che accoglierà tantissimi turisti e tantissime persone che si battono per i diritti LGBT, e quindi è sicuramente un passo avanti rispetto a una cultura siciliana molto, diciamo, molto vecchia su questo tema. È una cosa che fa riflettere e che soprattutto è culturale, quindi con la cultura, diciamo, al contrario dell'ex ministro Tremonti, si mangia, e il Gay Pride è sicuramente un'iniziativa culturale. Quindi 10.000 euro sono una spesa veramente bassissima, inutile, e anzi sono pochissimi soldi, e credo che siano stati ben spesi e porteranno grandi investimenti su questo tema. Ragazzi, io... Va bene, ci ascoltiamo i Black Keys con Your Touch e poi ci sentiamo per i saluti, sempre su Radio Panorama. eccoci qua. Io voglio chiedere ancora una volta alla signora Lina del primo piano. Signora, le è piaciuta sta canzone dei Black Keys? Troppo forte! Che bella musica! Mamma mia, è sempre innamorata delle canzoni che passiamo. Ragazzi, anche questo mercoledì è andato. Noi speriamo di esservi stati di compagnia in questa serata un po' fredda, anche se siamo in Sicilia. Vi aspettiamo ovviamente in replica per chi ci vuole riascoltare o per chi ancora non ci ha ascoltato a mezzanotte, sempre sulle frequenze di Radio Panorama, ovvero sui 106.4, 100.7 e 104.1, o se preferite, vi viene più comodo, su internet al sito www.radiopanorama.info. E non solo, anche per chi ha uno smartphone da TuneIn, l'applicazione TuneIn, cercate Radio Panorama e ci ascolterete in diretta. Dobbiamo fare gli ultimi saluti, e Paride che non l'abbiamo salutato, ci ha scritto su Facebook. Sì, ciao Paride. Tutti gli ascoltatori che ci hanno, sono stati con noi nel corso della puntata, ci hanno onorato scritto della loro presenza. Sì, e poi niente, ci rivediamo mercoledì prossimo. E noi salutiamo, perché sulla marchetta di Popolino, lui era Andrea, lui era Antonio, e di là, dall'altra parte del vetro, c'era Bruma. Vi lasciamo con Caparezza. Ciao.